c'è più compassione, distacchiati dal presente, facci quello che vuoi, ma poi lasciaci la fine. Tanto è tutto finto, tanto è tutto un gioco, c'è prima tolto il fuoco e dopo anche l'istinto, non ci frega più niente, la TV rimane spenta, è solo un po' di oggetti, ignoriamo quei consigli, di sto mondo siamo figli, ma irriconoscenti, perché gli sconosciuti troppo spesso ci rimbalzano, non ci sentiamo esclusi, siamo noi che ci escludiamo, anche se non sembra umano, sembra folle, accasciati su un divano, ancora meglio su di un prato, legati da uno spago con il vento sulle foglie. Siamo stanchi, pochi, vuoti, e per questo indifferenti, fogli, muti, freddi, e per questo forse inutili. Per non piegare il capo per un pezzo di cemento, c'è chi ci ha lasciato il fiato e così sale la colpa. Non possiamo più lottare, ci hai battuto in ogni modo, affogando i nostri sogni e ci insegue un'altra volta. Siamo già stati umiliati, siamo già stati puniti, nei vestiti abbiamo la puzza che tu ci hai lasciato addosso, nelle corde, nelle pelli, nella voce, nei capelli, nell'occhiaio e sotto gli occhi. Abbiamo ancora i segni, e la fine mani in alto, e il confine abbiamo sete, l'acido sui muscoli impedisce questo salto. Finita ogni energia, solo luce, solo acqua, ti daremo l'anidride come unico lamento. Siamo stanchi, pochi, vuoti, e per questo indifferenti, fogli, muti, freddi, e per questo forse inutili. Egoismo, gli occhi chiusi per subire questa sola mutazione, la saliva è clorofilla, le lacrime sono linfa, piedi sfondano il terreno, le buttano radici, non abbiamo più nemici, la pelle già corteccia, non abbiamo più nemici, i capelli sono foglie, piantati qui sul posto come unica difesa, come unica offesa, i nostri frutti digestibili. Indifferenti, finti, fiacchi, venti, e la nostra metamorfosi.